6A. Ascolta e rispondi. Che cosa cerchi? Cerco il mio zaino. Che cosa metti? Metto il mio cappello. Che cosa disegni? Disegno il mio giardino. Che cosa è? È il mio abbonamento. Che cosa fotografate? Fotografiamo i nostri diplomi. Che cosa fotocopiate? Fotocopiamo i nostri documenti. Che cosa preparate? Prepariamo i nostri bagagli. Che cosa vendete? Vendiamo i nostri quadri.